Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Non esiste una colazione così cara. Posso un asteroide colpirmi se esiste? Abbiamo fatto esplodere con successo il nostro primo ordigno termonucleare all'idrogeno. I media di Stato, megafoni del potere, annunciano trionfanti che il paese è pronto a inserire a bomba l'idrogeno in uno dei due missili intercontinentali testati a luglio, capaci di raggiungere gli Stati Uniti. La tensione dunque non accenna a scemare in tutta la regione. La Corea del Sud convoca un arrivo di emergenza, mentre il Giappone considera il test inaccettabile. Che sarà mai? Kim Jong-un, il grassottello obeso dittatore ma padre spirituale della Corea del Nord, sta facendo qualche test nucleare. Hanno stimato che c'ha un arsenale che tra bombe sporche, missili, attrezzi vari, cose nascoste potrebbe fare fuori, non so, 20 milioni di esseri umani. Ma che volete che sia? Vi preoccupate? No, avete sentito al giornale radio oggi pomeriggio, già è pronto a fare un altro test, farà test su test. È come in quei film di fantascienza che c'è il dittatore pazzo, ma state tranquilli, poi alla fine vedete già si stanno preparando. Farà un bel attacco con bombe intelligenti il presidente Trump, in qualche maniera, come sempre, si risolverà il problema. No, non è questo l'assillo che mi tormenta questa mattina, è un'altra cosa. È una paura ben più profonda che mi dà un segnale inequivocabile che siamo vicini alla fine del mondo. E su questa possibile fine del mondo vorrei interrogare questa mattina il pubblico. Quest'anno avete sentito, il sottopancia di questa trasmissione è lievemente diverso, è il piacere del dubbio. Io sono una persona che ha dubbi, non ho certezza, anzi ogni giorno sovrascrivo ogni mia certezza. A ogni mia certezza pongo immediatamente un nuovo punto di vista. Voglio cambiare idea ogni istante della mia vita. Aiutatemi voi questa mattina a chiarirmi un dubbio. Qual è la cosa che più vi fa paura? Cos'è che più temete? Sicuramente anche voi siete sicuri che siamo a un passo dalla fine del mondo, è proprio dietro l'angolo, il mondo sta per finire, le cose non vanno più come una volta, tutto è diverso, non ci ritroviamo più in questa umanità, ma sono le bombe atomiche che stanno esplodendo al largo del Giappone, che probabilmente creeranno il focolaio di un nuovo conflitto internazionale, o quello che avete sentito? Lo spot della Barì, lo spot del Bondimotta, lo spot del Bondimotta in cui naturalmente è diventato l'argomento principe, ne hanno parlato tutti, se ne è parlato anche oggi in questa radio, ma come fare a non parlarne? Immaginate il Bondimotta. Il Bondimotta lo prendevo io come merendina privilegiata quando facevo le scuole elementari, in una scuola elementare rurale, in una periferia di una piccola frazione di Perugia. Sarà stato l'anno dal 60 al 65, non ricordo bene. Tutte le mattine andavo dal droghiere: cosa vuoi di merenda, bambino? Voglio il Bondimotta. E me ne andavo con questo fardello morbidoso fra le mani, non vedevo l'ora della ricreazione, lo aprivo, esalava un profumo, mi sembrava bello, soffice. E che questa mattina sono andato al supermercato, ho comprato una confezione di Bondimotta, ve lo faccio sentire. Innanzitutto non c'è più il Bondi singolo, bisogna comprarne una scatola che ne conterà 5 o 6, ma è un'altra cosa, è seccaticcio, è schifosetto, è un'altra cosa. Però il Bondimotta è diventato al centro dell'immaginario pubblico di questa nazione, molto più importante delle bombe del dittatore coreano. Ma questo è vero. Cosa accade? Accade che una bambina petulante, schifosetta, pronuncia una frase improbabile, viziata, una bellissima casa, con quelle colazioni che fanno soltanto nei film, con tutto apparecchiato, con una mamma bella come sono belle soltanto le mamme della pubblicità. Chiede naturalmente una colazione iperreale, la madre dice non c'è questa colazione, e gli arriva un asteroide e la spiaccica. La mamma spiaccicata, questo è il vero segno dell'apocalisse. Vi rendete conto? L'oggetto più legato ai miei ricordi fanciulleschi, che è il Bondimotta, che mi dava il conforto di qualcosa che mi ricordasse il fatto che ero bambino in un'orribile scuola in cui le maestre picchiavano i bambini, è diventato pari all'oggetto di distruzione del dittatore coreano. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, bentornato. Ringrazio lei, ringrazio Fabrizio, tutti quanti. Ma non ringrazi nessuno, è inutile aggruffianarsi. No, ma è una maniera di dire, io poi sono vecchio, queste cose me le faccio. Beh, siccome ha già un piede nella fossa e probabilmente è meno preoccupato degli altri, mi dica, lei è convinto che ci siano dei segni inequivocabili della fine del mondo vicina? Perché? E glielo chiedo, perché... No, io non ci credo, queste cose qui... Non... Il mondo continuerà in eterno. Beh, scusa. No, ma sì, ma scherziamo, solo i preti continuano a parlare di fine del mondo. Tra preti, ma veramente sì. I preti non ne parlano più tanto. No, no, adesso le dico chi ne parla. Allora, andiamo. Io ho una specie di calambur, di assioma, chiamalo come vogliamo. Sì. È meglio avere una certezza che si rivela fasulla, errata, o un dubbio che si rivela giusto. Lei tutta la vita ha studiato per esprimere questa massima di saggezza. Ma no, ma questa l'ho copiata in giro, però mi è piaciuta e mi piace condividere. Quindi faccio la sua sintesi, ascolta, perché sennò è complicato. Ascolta, no, non ascolto. La premo e la presso, perché il tempo a disposizione è pochissimo. Sì. Lei mi deve dire esattamente, visto che è espresso con questa massima letteraria, citando qualcosa e qualcuno, quindi anteponendo il giudizio altrui a quello che potrebbe essere il suo illuminato giudizio, anche se, come ho già detto, essendo in età avanzata, lei ha ancora poco da capire e da decidere, mi dica, non trova che ci siano dei segni inequivocabili che il mondo stia finendo? No, io non per me no, io volevo finire, se la domanda è questa, no, non ritrovo, fine. Mi lasci chiudere, no, la dedica, no, al mio crudelmente, show, crudelmente non la faccio chiudere. Sergio, buongiorno. 800 24 00 24, ho urgente bisogno di conferma da parte del pubblico di quelle che possono essere comunque delle certezze, visto che io non ho nessuna certezza. Per me il segno più potente in questo momento della fine del mondo è proprio lo spot del Bondi Motta e questa distruzione immediata, con un segno che in realtà non esiste più giustizia divina, perché se c'era qualcuno da spiaccicare era la bambina, non la mamma, perché la mamma ancora poteva servire a qualcosa, la bambina già nasceva male, quindi era il caso di resettarla. Invece è stata colpita la madre, e non soltanto la madre. Sergio, buongiorno. Sì. Salve, buongiorno. Lei già ride? No, io rido perché è una bella provocazione la sua, quella che... Allora, mi dica esattamente, lei si sveglia la mattina, no, non la prenda sempre come un gioco, vede qualcosa che improvvisamente le dà il segno, dice, ma no, così non si andrà più avanti. Una cosa che è più vicina alla sua esperienza, mica deve seguire quella che è la mia traccia, bombe o Bondi Motta, non è questo. No, per me il fatto che adesso siamo 8 miliardi e quando sono nato io eravamo 2,5, è un segno chiaro che il mondo non può andare avanti da nessuna parte. E quindi qual è la soluzione? Che, come abbiamo sempre fatto con ardua maestria, ci sterminiamo tra di noi, e quindi... È quello che succederà, è quello che sta succedendo. E quindi, giustamente, lei segue quella che è la mia traccia, non è tanto grave quello che sta accadendo in Corea del Nord, perché è un momento di naturale regolazione della iperproduzione di esseri umani, ma è molto più grave che si attenti alla base, quella che è la compattezza delle nostre certezze, quindi il Bondi Motta. Sì, ma no, questa qua è uno scherzo, quello del Bondi Motta. Lo scherzo su una cosa veramente seria. E qual è la cosa seria? La mamma che non deve morire? No, la cosa seria è che effettivamente una cosa del genere potrebbe succedere, ci si scherza sopra, è una cosa che sta per succedere. Secondo lei ci sono delle probabilità certe che caschi un asteroide e fulmini una mamma mentre chiede la bambina poverina che vorrebbe una merendina che non esiste? L'asteroide è una cosa, è un mezzo per dirla questa cosa qua, non credo, non è proprio... Quindi una metafora. Non è da interpretare letteralmente. Quindi diciamo che i creativi della Bondi Motta ci hanno voluto dare un segnale attraverso una metafora, ci hanno fatto capire qualcosa potrebbe accadere. Sì, può darsi, i creativi tendono sempre ad esagerare comunque. Sì, però magari dei segni inequivocabili di quello che sarà il destino dell'umanità si trova anche in delle improbabili vicende. L'universo può essere visto anche nella corolla di un fiore, quindi la fine dell'uomo può essere vista anche nell'asteroide del Bondi Motta. Vediamo che ne pensa Ettore. Ettore, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Mi sono fatto io un'idea magari sbagliata, però... Secondo me non vorrei che sia un'occasione voluta, cioè un accordo per far scoppiare una guerra voluta, magari senza poi troppi morti, però tanto per poi voluta dalle multinazionali, voluta per dopo, visto che dicono che dopo una grande guerra c'è sempre la grande ripresa, no? Economica. Oh, ecco, lei Ettore è proprio la telefonata che cercavo. Lei è una di quelle persone acute che non si ferma di fronte a una verità raccontata comunque da noi gazzettieri, noi servi comunque del potere. Lei pensa che dietro ci sia un grande complotto, che probabilmente dietro le bombe atomiche del dittatore nordcoreano in realtà c'è un altro dei tanti sistemi per ingabbiare il mondo in una rete di potere. Esatto. Però guardi, le due cose che accadono assieme. Allora Ettore, mi segua, visto che lei ha degli strumenti. Queste cose le acquisisce guardando in rete, navigando, cercando nei siti che nessuno va a guardare, immagino. Sì, anche. Bene, su se lo va a guardare non so, però seguendo soprattutto in rete, seguendo... Ma la rete, è piena di, verità nascoste, nessuno lo sa, ma le due cose messe assieme, guardi, secondo lei è un caso che nello stesso istante storico in cui il mondo dovrebbe tremare per quello che è l'arsenale nucleare del dittatore nordcoreano, che potrebbe toccarci, il mondo poi piccolo, perché se lì scoppia un focolaio di guerra, comincia Trump a mandare i missili, risponde la Cina, Putin che sta a guardare, succede un casino terribile. Che succede? Ma il vero problema è che non avremo mai, non so, il Samsung S19, perché si fermeremo all'S9, all'S7 se succede questo. Questo è grave, ho l'iPhone 24, tutte queste cose, vero? Quindi, per evitare questo, secondo lei, qual è il punto? Cosa dovremmo scardinare? Cosa dovremmo capire? Beh, io guardi, visto allora, le do un altro elemento, una cosa che è accaduta, che metto insieme a questi due elementi, e non dimentichi che Nostradamus aveva già previsto per il 2017, Nostradamus è sempre adattabile comunque alla realtà, aveva previsto che qualcosa sarebbe accaduto comunque in Corea, che sarebbe arrivato un asteroide, e l'asteroide, anche se non è arrivato, ha lambito soltanto, ma molto da lontano, la nostra galassia. In realtà l'asteroide è arrivato nelle nostre coscienze, è l'asteroide del Bondimo. Quindi qualcosa potrebbe accadere. Hai visto mamma? Io avevo chiesto una colazione che coniugasse leggerezza e golosità. Ma lo so anch'io che non esiste una colazione così. Possa un asteroide un po' più infuocato di questo colpirmi se esiste. Dal posto numero 1 troviamo la profezia che in un certo senso dovrebbe farci più paura. Non si sa quando e dove dovrebbe cadere il meteorite. Il versetto fa riferimento solo a un qualcosa, grande più di 1000 stadi, che scende sulla Terra e sarà causa del terrore dell'umanità. Questo fatto potrebbe determinare, secondo alcuni, la fine del mondo. Per altri, invece, rappresenterà un fatto con conseguenze gravissime per l'umanità, ma permetterà a una piccola parte della popolazione di sopravvivere. L'umanità comunque si salverà, avrà modo di salvarsi, come dice appunto la profezia di Nostradamus. Chi sopravviverà al grande asteroide, al meteorite, vivrà per tantissimi anni. Ho dato l'anticipazione poi a quella che è la seconda parte della vera profezia, del vero segno nascosto, di ciò che dovremmo noi veramente aver paura, la dissoluzione della famiglia attraverso l'asteroide. La pubblicità del Bondimotta continua, ha un suo proseguimento, di cui i giornali ancora non hanno dato abbastanza testimonianza. Dopo che la mamma è stata schiantata, è finita sotto l'asteroide infuocato, la bambina, totalmente priva di ogni emozione, sta lì, guarda, e a lei dispiace soltanto, non arriva la merendina, arriva un papà bimbo minchia. Il papà bimbo minchia naturalmente non si è reso conto di niente, non si è accorto nel suo giardinetto, nel suo pratino inglese, di fronte alla sua villetta comprata con 1000 buffi, improvvisamente è caduto un asteroide e gli ha sterminato metà della famiglia. Forse è contento, forse è inconsapevole, forse quella donna che giace lì sotto tonnellate di materia bollente è stata soltanto per lei un pretesto per generare quel piccolo mostro della figlia, e fa una domanda alla figlia: dov'è la mamma? E lei dice: la mamma non mi ha voluto dare la merendina. E improvvisamente arriva un asteroide ancora più grosso e seppellisce anche il padre. Raffaele, buongiorno. Buongiorno Oscar, la condivido pienamente, mi meravigliavo che ancora dovevo citarla sta cosa, perché rimasi sconvolto nelle prime pubblicità. È veramente lei in che condizione familiare assistette a questo terribile evento? Io ho i figli grandi, cioè non è il problema, però giustamente pensare che era scioccante per i bambini. Bisogna pensare anche ai bambini, giustamente. Lei, Raffaele, quando è accaduta la prima volta che ha visto la pubblicità del Bondimotta? Secondo me nelle prime pubblicità già sono rimasto scioccato, infatti ho detto: ma c'è, nessuno commenta questa problematica. Con chi ne ha parlato lei? Con chi ne ha parlato, Raffaele? Ho parlato anche con mia moglie. E sua moglie cosa diceva? Era turbata? Mi perdoni? Era turbata sua moglie? Sì, ma perché una pubblicità che va, cioè naturalmente su una fascia di persone, per quel prodotto che presentano, che va proprio, diciamo, a toccare una Lei una quanti anni ha? Quanti anni ha, Raffaele? Io ho 57 anni. Lei da piccolo prendeva il Bondimotta? Sì, ma io me lo ricordo, io ho 63 anni, ho qui in mano come un pallido rimasuglio di quello che ancora ha possibilità vitale, mi ricordo infantili, il paccone del Bondimotta comprato al supermercato qua sotto, appena purificato alle presenze straniere, perché il grande sgombero è avvenuto proprio qui davanti, quindi il supermercato si va tranquillamente, non ci sono più quelli stesi per terra col tavernello in mano o che si accoppiano selvaggiamente sul marciapiede, quindi ho un Bondimotta incontaminato da ogni possibile passaggio passaggio di straniero, di migrante, di rifugiato politico, eppure non è più quello di una volta. Non lo trova questo sia grave? Sì, ma mi si stanno rompendo tanti equilibri che dovrebbero esistere ancora, specialmente poi in determinati orari, in determinate pubblicità devono essere fatte. Quindi ci vorrebbe una regola che dicesse che perlomeno in fascia protetta le mamme non devono morire. Ma qua stiamo parlando di pubblicità, è molto più, cioè non dovremmo nemmeno parlarne di queste cose. Cioè, lo so, ma le cose brutte vanno affrontate. Non avrebbe voluto parlare. Raffaele, lo so che le fa male in questo momento, ma le cose brutte vanno affrontate. Io mi fermo soltanto un istante, riprenderemo tra poco. 800240024, ho dato soltanto un assaggio. Vorrei che voi in qualche maniera riempiste la mia incertezza, deste un senso al mio dubbio. Cos'è peggio? Qual è la cosa che più vi fa male? Il disastroso sterminio della famiglia del Bondimotta, o quello che sta accadendo in Nord Corea, che in fondo sono cose che poi alla fine sono all'ordine del giorno, se ne parla in fondo dal dopoguerra in poi di guerra atomica e nucleare, e ancora non è successo niente. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Il piacere del dubbio. Mamma, mamma! Vorrei una colazione leggera ma decisamente invitante che possa coniugare la mia voglia di leggerezza e golosità. Non esiste una colazione così, cara. Posso un asteroide colpirmi se esiste. 800240024, inizio sulla facezza, però venitemi dietro anche nella facezza, perché il tema non è da poco. Io sto inseguendo qualcuno che mi dia delle certezze. Perché? Perché io mi solletico, mi sollazzo, mi intrallazzo nel piacere del dubbio. Per me la mia vita è sempre basata sul dubbio, sempre dubitato. E io dubito oggi di fronte a due segni inequivocabili della fine del mondo, quale sia quello decisivo, quello che veramente mi dà il segnale che qualcosa cambierà, in meglio, in peggio, non lo so. Sicuramente meglio nel caso dello spot del Bondimotta che ho appena assaggiato nella pausa. Anche l'odore non è più lo stesso, il sapore non è più lo stesso. L'unica cosa che rimane è che la foto del Bondimotta pubblicità è diversa dal Bondi reale, ma questo per tutte le merendine, per tutti i prodotti che vengono comunque confezionati. Fuori c'è una foto bellissima, è un po' come la foto di una bella donna o di un bell'uomo camuffata con la cosmesi di un prodotto di fotoritocco, e poi in realtà è un'altra cosa. La stessa cosa vale ai prodotti alimentari. Vediamo di capire fra questi due segnali quale ci darà una maggiore certezza della fine del mondo vicina. Sentiamo Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma guardi, brevemente, a mio modo di vedere sono due facce della stessa medaglia, ovvero io ho 39 anni. È un'erma bifronte praticamente. Esatto, io ho 40 anni e sono cresciuto col Bondimotta, ovviamente, da bambino, le colazioni. E oggi scopriamo, passati purtroppo più di 30 anni, che il Bondimotta solamente esteticamente è rimasto il Bondimotta. Non è più lo stesso, questo nessuno l'ha detto e l'ha scritto ancora. Io ho in mano, guardi, un rimasuglio di Bondimotta che l'ho assaggiato, posso farvi sentire il biascichio. Ecco, non è più lo stesso. Qual è la differenza del Bondi di una volta rispetto a quello di ora? Cominciamo a partire da questo dato che è oggettivamente inequivocabile. Qual è la differenza? Anzitutto io ricordo che quello di una volta era molto più soffice, molto più soffice. E adesso è un po' gommoso. Sì, esatto, non so se l'hanno dato anche lei. È gommoso, certo. Esatto, poi la glassa non è più la stessa. Esatto, è rimasto solo lo zucchero, quello a granelle. Che è la cosa che fa più male, lo zucchero, esatto. Quello rimane, è chiaro. I dentisti che fanno. E quindi sono due facce la stessa medaglia, perché purtroppo poi il consumismo, la globalizzazione porta dei vantaggi, ma purtroppo poi ci fa anche mangiare il Bondimotta non più come era 30 anni fa. Quindi le buone cose di una volta non ci sono più. Ma ci sono ancora, ma è molto più difficile reperire. Allora diciamo l'asteroide che fulmina la famiglia felice è un segno che ci danno i poteri occulti che poi manovrano anche le pubblicità, le multinazionali che stanno dietro le merendine, naturalmente, come diceva l'ascoltatore di prima, che ci camuffano la realtà rispetto al conflitto in Nord Corea, che è tutta una cosa per distogliere la nostra attenzione a quelli che sono i veri problemi, magari, non lo so, gli stranieri. Purtroppo sono anche quello dell'alimentazione, sicuramente, ma a 360 gradi, ovvero che mangiamo cose che non sono più sane e che poi comportano anche una spesa. Quindi come vede, esiste ancora una chiave di lettura molto più profonda, più difficile da interpretare sul disastro della famiglia felice del Bondimotta. Sentiamo Serena, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Io posso darti un parere da nutrizionista. Lei è una nutrizionista, quindi un medico nutrizionista. Sì. E ti dico che l'ascoltatore precedente in effetti ha ragione. Il Buon Dì è diverso perché non c'è il burro. Ci sono grassi più sani, grassi più leggeri apparentemente, però quella secchezza, quella mancanza di morbidezza perché diciamo fino a, lei ha un profilo storico nella fabbricazione del Buon Dì. Fino a che anno è stato mantenuto il burro in grande quantità nei Buon Dì Motta? Ma fino agli anni 80 sicuramente. E poi cosa è accaduto nell'economia mondiale per cui il burro è stato tolto dal Buon Dì Motta? Perché il burro è uguale colesterolo, quindi c'è stato un aumento del tasso di obesità di questi, soprattutto nei bambini, e quindi chiaramente la necessità di imporre un'alimentazione. Dottoressa Serena, a questo punto io vorrei far coincidere un altro elemento. Secondo lei è plausibile dire che dal 1972 il Buon Dì Motta è stato privato del burro? Più o meno sì, forse anche un pochino, forse un pochino più tardi, però ci siamo. Allora a questo punto abbiamo scoperto una verità clamorosa, ci ha aiutato questa dottoressa a trovarla. Nel 1972, a seguire, se sarà stato il 73, il 74, nel Buon Dì Motta improvvisamente è stato tolto il burro. Questo elemento merendina che serviva a dare un coefficiente di calore, di compattezza, di tradizione nella famiglia italiana, chissà perché da metà degli anni 70 è cambiato perché mancava il burro. Vuoi sapere perché hanno tolto il burro al Buon Dì per cui oggi è quello che è? Ve lo dico io. Ma cosa fai? Voglio farti un discorso sulla famiglia. Quella santa istituzione inventata per educare i selvaggi alla virtù. E adesso ripeti insieme a me. No, no! No! Ripeti. Avanti, santa famiglia. Avanti, ripeti. Avanti, santa famiglia, sacrario dei buoni cittadini. Sacrario? Dei buoni cittadini. Una scena terribile, Marlon Brando possiede per vasne fandom, come dicevano una volta i confessori, Maria Schneider. E per farlo con un residuo senso di comprensione per la sofferenza umana, invece di farlo a secco, come chiederebbe appunto la brutalità della scena, usa del burro. Su quel burro cambiò completamente quella che era la percezione nel nostro paese della sessualità, del senso di famiglia. Quel film fu messo all'indice, fu bruciato, fu distrutto. Io lo andai a vedere come ultimo residuo tentativo di poter vedere qualcosa che apparteneva al mondo del proibito. Per me era impossibile lambirlo soltanto con l'immaginazione. Immaginare che il burro, quella bella cosina bianca che usava la mamma la mattina, che le spalmava sulle fette di pane tostato, quel burro di cui era pieno il Buon Dì Motta e faceva felice la mia fanciullezza, improvvisamente divenne lo strumento letale per un accoppiamento demoniaco. Ma non soltanto questo film fu messo all'indice, il film di Bertolucci, perché in realtà la scena del burro non tanto era grave per l'inchiappettata, di cui naturalmente la congregazione che osserva l'attinenza con la dottrina cristiana in tutti i film non aveva possibilità di scandalizzarsi più di tanto, era roba abbastanza frequente nei seminari, negli istituti religiosi e via dicendo. No, ma perché mentre avveniva l'atto di sodomia violento, violentissimo, sproporzionato rispetto a quella che è la percezione odierna della sessualità, veniva fatto con il burro, veniva fatto usando quello che è l'ingrediente più naturale, che rappresenta la chiave simbolica di tutte le armonie familiari. E quindi il Buon Dì da allora, per adeguarsi ai tempi, a questa nuova censura, ha tolto il burro e siamo arrivati al burro di ora e siamo arrivati allo spot del Buon Dì che è la distruzione della famiglia. Grazie, dopo 30 anni in cui non c'è più burro, perché il burro non può essere più usato, il burro è assimilabile alla distruzione della famiglia attraverso un atto sessuale non mirato alla fecondazione, naturalmente il burro manca al Buon Dì e il Buon Dì dopo 30 anni di dissoluzione, di assenza di burro nella famiglia italiana, dimostra la fine della famiglia. Matteo. Sì, però i segni sono contrastanti. Buongiorno. Mi aiuti fantastico a leggere? Io ho espresso, sì, secondo me, quella che è una sintonia che mi sembra di leggere. Non è poi così peregrina, perché se la nutrizionista ci dice non è più lo stesso perché manca il burro, il Buon Dì è il simbolo della distruzione, dell'apocalisse vicina, minando quella che è l'elemento naturale come la famiglia, poi Di Nolfi ce lo insegna, finirà la famiglia, finirà il mondo, perché? Perché manca il burro. E perché manca il burro? Il burro è stato tolto perché qualcuno lo usò in maniera impropria tra le chiappe della buonanima di Maria Schneider. No, io voglio alimentare il dubbio in più direzioni. Io sono nato nel 75, quindi se adesso il buon Dì fa schifo, a me non cambia niente, il mio mondo è intatto. Lei aveva già diciamo, il buon Dì deburrizzato. E infatti mi ha sempre fatto schifo. Poi, secondo me, potremmo dire che il mondo non stia cambiando perché in Italia si continua a percepire come scandaloso qualcosa come la pubblicità del buon Dì. Cioè tutti fin da bambini abbiamo parlato dei meteoriti che ci cadono in testa, però pubblicità del buon Dì, con tutti i problemi che abbiamo, chiama il genitore e dice che scandalo la pubblicità del buon Dì. Le mamme sono rimaste male, sono rimaste male per questa confessa ormai dichiarata, anche se era una sorta di vulgata interna alle confessioni tra amiche, mancanza di burro, e quindi se in famiglia non si usa più il burro sono dolori, questo lo capisce da lei, ma allo stesso tempo sono accorate dal fatto che potrebbe finire tutto in un meteorite. Sì, allora, io ripeto, per me il nostro mondo, se il nostro mondo d'Italia non sta finendo, e questo scandalo, questa percezione dello scandalo ne è la prova. Se poi vogliamo dire che sta finendo per via del meteorite, ma il mondo finisce anche se la mamma non viene distrutta dal meteorite, prima o poi morirà di vecchiaia, no? Diventerà anziana, la bambina grande è già stronza da bimba, lo diventerà ancora di più, ma è semplicemente un cambio di generazione, il mondo cambia a ogni generazione. Beh, si è creato con questo spot comunque un altro mito, un mito molto lontano che appartiene comunque a un certo tipo di letteratura che ormai sembra così poco capace di toccare le nostre corde. Pensi al romanzo d'appendice, pensi quanto le orfanelle stronze poi potranno fare di danni nella società e quanto oggi potrà fare di danno questa orfanella stronza che ha avuto i genitori totalmente sterminati, ma per cosa? Soltanto per qualcosa, perché se questi genitori avessero usato il burro probabilmente lei non sarebbe nata e oggi non staremmo qui a parlare. Ci sentiamo tra un istante. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta Melog, il piacere del dubbio. Questo è un altro segno oggettivamente indubitabile dell'apocalisse prossima, vicina. In India è nata una capra con la faccia da uomo. Voi direte una bufala, è una fake news. No, è vero, siano i due contadini indiani tutti contenti, hanno sta capra orribile, schifosa. È tutta grigia, senza pelo, è liscia come la pelle di un alieno. E c'ha la faccia da uomo, col naso, le orecchie, la bocca, una lingua schifosa che esce. Com'è la capra è venuta con la testa umana? È quello, si vede. Loro sono tutti contenti, ci diventeremo ricchi con questa capra che fa vomitare soltanto a guardarla. Esiste un filone complottista che sta dichiarando come certezza, ma io su questo ho dei dubbi, ma sarete voi a chiarirmelo, che si stanno ormai svolgendo, sdoganati da ogni divieto, gli esperimenti di formazione di chimere. Stanno innestando comunque del DNA umano negli animali, soprattutto in Inghilterra pare questo si stia facendo, e stanno venendo fuori le chimere. Si partiva ad avere un maiale un po' umanizzato per poter fare dei trapianti, ma la fame viene mangiando e adesso gli viene voglia di fare centauri, di fare le gorgoni, di fare tutti i possibili animali mitologici che ritornano fuori. E il primo esempio potrebbe essere questo, sfuggito al laboratorio, la capra con la testa umana. Beh, questo è qualcosa che ancora nessuno mi ha spiegato. Maria Paola, buongiorno. Buongiorno da Milano. La sto ascoltando. Sono Maria Paola. Senta, io ho fatto anni fa dei bonifici in banca, lavoravo in banca i primi lavori e ho scoperto una cosa che non dirò il nome, però quel biscotto lì c'è sempre in circolazione. A quale biscotto? Di quale biscotto sta parlando lei? Non posso dire il nome perché insomma. Ma è un biscotto licenzioso, qualcosa che. Comunque siamo ai tempi del buon Dì, insomma. Vabbè, un biscotto. Ecco, e io ho fatto una scoperta. Vedevo che quando c'erano i bonifici di questo biscottificio passava un sacco di soldi. Un'industria che insomma io dicevo quelli del petrolio, cioè non ho mai visto che passasse o un'industria olearia oppure di burro. Quindi, perfetto, Maria Paola, ferma, Maria Paola, la sua testimonianza è importantissima. Una ex bancaria in pensione, Maria Paola, scoprì già al tempo, e aveva questo rovello, che un biscottificio, quindi un prodotto analogo a quello del Buondì, quindi il germe di dissoluzione dell'unità familiare era diffuso non soltanto al Buondì, ma a tutte le merendine che hanno rappresentato in fondo la formula della felicità in tutti gli anni del boom e del post-boom. Invece che il burro, venivano forniti da un'industria che forniva altri tipi di lubrificante. Erano lubrificanti, parlo degli anni 70-80. Quindi il burro non veniva più usato come lubrificante, come era giusto prima del film di Bertolucci. Quando si fa i bonifici è proprio la cosa più vera. E, noi ragazzi, e lei allora cosa pensò in quegli anni? Maria Paola, calma, mantenga la calma. Maria Paola, lei cosa pensò allora? Dicendo non c'è più il burro dentro i biscotti. No, quindi? Io dico di no. E secondo lei da quando il biscotto non è stato più imburrato sono cominciati i dolori? No, io sono una che gratto. Per esempio io non posso mangiare la frutta che arriva dalla Spagna perché usano gli antibiotici e io sono intollerante. E lei cosa fa allora? Gratta la frutta? No, io sono una che cerco sempre disperatamente l'Italia. Cioè frutta, tutte le cose possibilmente. Vabbè, può fare italiane. La mela grattugiata comunque lo stesso? Toglie la buccia. Ma guardi, io sono proprio l'esempio e adesso lei mi ha messo una curiosità che vorrei cominciare a mangiare il mio ex biscotto che c'è sempre. E io le auguro di trovarlo sempre fresco, sempre pronto e con tutto il burro necessario. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono rimasto colpito, al di là della sua giusta interpretazione quasi semiologica su tutto l'aspetto di questo sport. No, ma io mi meraviglio soltanto che nessuno l'abbia colta questa cosa, che il Buondibotto non è più lo stesso, perché non c'è più burro? Perché non c'è più burro? Proprio da metà degli anni 70, come ci ha testimoniato la scienziata della nutrizionista, perché allora il burro fu messo all'indice per un motivo di ordine morale, perché il burro era l'elemento che segnava la fine della famiglia tradizionale, perché il burro lo usò Marlon Brando per deflorare posteriormente la Maria Schneider. Certo. Però io sono rimasto colpito da un'altra cosa, magari sembra banale, il messaggio violento. Cioè io sono rimasto colpito da questo aspetto, cioè il fatto che anche nella pubblicità oramai e neanche più a livello subliminale si accetti e ci si adegui a un'impostazione da YouTube, perché immagini violente ormai le vediamo su tutti i video. Ma Enrico, lei si è già risposto da solo, lei capisce che dal momento in cui qualcuno decise non si usa più il burro, tutto è diventato un atto violento. E quando nell'impero di facciamola secco, improvvisamente si apre un universo, da lì nasce la violenza, lì nasce la cattiveria umana. Margherita, d'accordo? Io avrei qualche obiezione da fare. Allora, premetto che purtroppo per me non ho visto questo spot, vedo pochissimo la televisione. E, però dalle sue affermazioni io ho trovato la cosa formidabile. Oggi la grande difficoltà è trovare nella pubblicità qualche cosa che capti l'attenzione e la trattenga. E io credo che questo spot entrerà nel linguaggio normale. Se non mi dai i soldi per andare al pub, un asteroide mamma ti colpirà, in senso scherzoso naturalmente, non in senso effettivo. Ma lei questo diciamo, però mi scusi Margherita, è la lettura superficiale che hanno fatto tutti i giornali oggi, una pubblicità dissacratoria. Un'altra cosa, l'asteroide che colpisce la mamma non è affatto diseducativo, perché se il bambino è piccolo deve vedere la televisione accanto a un genitore e il genitore gli spiegherà che quell'asteroide è l'asteroide della verità e quindi... Ma ammazza anche il papà poi, ammazza anche il padre, questo per appunto, l'asteroide della verità diciamo colpisce sia la mamma sì, sia ma il scusi, papà, ma se poi il bambino, scusi no Margherita, se il bambino apprende talmente bene la lezione, va in cucina, prende la mannaia che la mamma usa per spaccare le bistecche a papà e spezzetta mamma e papà, non si devono lamentare. Allora, Allora, è affascinante questa sua argomentazione, ma non è valida. Perché, me la confuti? Se, no, attento, se il, ragazzo è grande, naturalmente lo prende, come l'abbiamo preso tutti, come Oddio, una mica, diciamo, non esiste una regola che per forza dobbiamo prenderlo tutti. La prende anche diversamente, non lo so. Sì, certo, ma se il bambino è piccino e allora potrebbe essere diseducativo, deve vedere la televisione accanto a un adulto che gli spieghi che l'asteroide che ha colpito la mamma è l'asteroide della verità. Va bene, Margherita, quindi... Margherita ci vede un segno quasi avventista. L'asteroide della verità chiude col vecchio mondo, ma io vorrei ritornare con Luca nell'ultima fase, nella lettura abbiamo fatto noi, nella meta lettura dello spot. Luca, è d'accordo con quello che dice Margherita? Ma di fondo il problema resta un altro: non possiamo aspettarci da un prodotto industriale una qualità dei prodotti che è relativa ai costi artigianali, perché se noi prendiamo i vari oli vegetali che abbiamo... Ma lei è del settore, del mestiere che parla con te? Sì, faccio l'artigiano. Cosa fa lei? Cosa costruisce? Faccio il pane, faccio le merendine. Ecco, lei il burro lo usa ancora nelle merendine? Certo, bisogna usarlo. Sono d'accordo anch'io. Ci hanno raccontato dopo 30 anni che l'olio di palma fa male. In realtà non fa male, fa male come il burro. Con i quali siamo cresciuti noi. Beh, con il burro fa meno male probabilmente. Luca, la sintesi, la morale: con il burro fa meno male. E quindi abbiamo capito una realtà in più, qualcosa che io non mi ero mai domandato e non ero mai entrato così nel profondo, nello specifico. Oggi ho capito che se vogliamo sintetizzare comunque quello che è l'argomento che attanaglia l'immaginario degli italiani è: ricordate, italiani, con il burro fa meno male. A domani.